Siede la patria mia, tra il monte e il mare, quasi teatro, ch'abbia fatto l'arte, non la natura, a riguardati appare, e il tagliamento l'interseca, et parte, s'apre un bel piano, ove si possa entrare tra il merigge ed l'occaso, e in questa parte, quanto aperto ne lassa il mare e il monte, chiude liquenza, con perpetuo fonte. Nel mezzo siede la città, che resse Attila et gli Unni, onde il suo nome ottenne nobil città, ch'ad Aquileia successe, che innanzi a quel flagello a terra venne. Ed lo stesso crudel che l'una oppresse sollevò l'altra, ove il suo campo ei tenne. Così si cambia il mondo, et le ruine son delle cose ad un principio et fine. Non è di basso nome, et fu già caro albergo al grande Iulo, onde s'appella. Dolci acque, verdi selve, et aer chiaro, bei colli, largo pian, vaghe castella, fertil terren, che la speranza raro ingannar suol, la fan leggiadra et bella. E il liquor di Lieo cresce in tal copia, ch'a largo anco d'altrui tempra l'inopia. Dolce è il veder per le campagne amene, mentre attendonsi greggi a far satolli, titiri e tirsi al suon d'umili avene, far le lor fiamme note a verdi colli. Et pietose le ninfe alle lor pene correr, et carolar per l'erbe molli, scherzan tra rami mille augelli intanto, e il dolce suon seguon col dolce canto. Guizzando vanne fiumi a schiere i pesci, e il pescator sfidan da l'onde, et sfidano il falcon le gru straniere, l'anitre e i cigni dall'erbose sponde. Per tutti i siti di diverse fere son le foreste al cacciator feconde, e seconda non meno i colli e i piani son alla stor di starne e di fagiani. Amica a peregrin, cortese gente, destra nell'arme et ne perigli ardita, ancor non sa scordar anticamente questa colonia esser di Roma uscita. E sa più questi studi erge la mente, vien dalle muse ancor non men gradita. Facil natura, ovunque vuoi s'intende, lieta vi s'affatica, e tosto apprende. Gode errar per le selve, e t'accompagna l'opra, e il riposo con ugual fatica. Quanto dell'opra avanza, alla campagna dona, et la caccia ha più che i tetti amica. Or i veltri, or la stor, et or la ragna adopra, et or gli augei col vischio intrica. La posa cancia col sudor, e l'ozio converte per piacer sempre in negozio. Che possa i giorni suoi, tranquilla et lieta con questi studi, trar per le foreste, le consente dal ciel fausto pianeta sotto la cura del leon celeste. Covunque volge il grave aspetto a queta della terra e del mar latre tempeste, et dell'util comune alto custode, d'eterna pace si nutrica et gode.